Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento insieme all'Adico di Mestre. Saluto Gianluca Codognato con noi al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, noi stiamo usufruendo del telefono, mezzo fondamentale per comunicare, ma lo sappiamo è anche un mezzo ottimo per cercare di vendere qualche prodotto, commercializzare qualcosa, e quindi anche un buon modo per disturbare la quiete pubblica, anzi la quiete privata di ognuno di noi. Parliamo di questo. Sì Francesco, abbiamo già avuto modo di parlare di alcune iniziative di Adico, comunque anche di iniziative anche di alcuni giornali che hanno provato a avviare una raccolta di firme delle nuove proposte di legge contro lo stalking commerciale, ci piace chiamarlo stalking commerciale, e sono le famose telefonate che riceviamo tutti i giorni, 4, 5, 10, 15, anche a volte il sabato, anche ad orari assurdi, dai venditori commerciali che ci vogliono proporre appunto offerte mirabolanti, gas, luce, telefono, assicurazioni auto, offerte che magari possono essere anche vantaggiose, però diciamo che in linea di massima sono dei veri e propri disturbatori all'Adico, e spesso riceviamo richieste d'aiuto per difendersi da questi call center che chiamano tutti i giorni e cercano di convincere le persone. Certo, già altre volte ne avevamo parlato, che esiste un elenco dove potersi iscrivere per non farsi più chiamare, ma poi anche queste cose non hanno gli effetti sperati e voluti. Bravissimo Francesco, abbiamo comunque suggerito di iscriversi, chiaramente questo registro delle opposizioni vale solo per chi, solo per la telefonia fissa e solo per chi è iscritto, è registrato appunto su un elenco telefonico, quindi insomma limitiamo di molto il suo utilizzo. In più, diciamolo chiaramente, è utile, però a volte non serve, perché tanti operatori di telemarketing non lo rispettano, e comunque qualcuno non si fa impaurire dalle multe, che evidentemente non sono così alte, o comunque non inficiano i guadagni e comunque la volontà di effettuare lo stalking commerciale da parte dei call center. Quindi diciamo, né le multe servono, né tantomeno tanti operatori rispettano questo registro delle opposizioni. Però Francesco, il problema è talmente diffuso, e non è solo italiano evidentemente, tanto che, è di questo insomma che vogliamo un attimo parlare, sembra che ci sia una bozza, anzi c'è una bozza all'interno del regolamento sulla riservatezza della Commissione europea, presentata nelle scorse settimane, che ha avuto un'idea insomma che può essere giudicata per quello che è, adesso ognuno la giudicherà, però è quella di creare un unico prefisso, quindi un prefisso unico, speciale, legato solo ai teleoperatori. Quindi cosa significa? Significa che io quando vedo la chiamata da un certo prefisso so che è sicuramente un operatore commerciale, e deciderò se rispondere o meno. Perché l'hanno fatta Francesco questa cosa? Soprattutto perché ormai i call center massacrano di telefonate le persone anche sui cellulari. Quindi più che a casa, dove comunque possiamo avere un telefono con il display, quindi possiamo vedere i numeri, e anzi lo consiglio vivamente, è molto utile, ma adesso i call center ci chiamano molto spesso anche ai telefonini. Però cosa succede? Succede che tante volte, anche per motivi lavorativi, le persone rispondono anche a dei numeri che magari non sono della propria zona. Per quanto ci riguarda, molto spesso le chiamate arrivano da Milano, Roma, Catania, Taranto. Ecco, in molte occasioni le persone preferiscono rispondere perché non si sa mai chi sia, e si trovano a parlare con gli operatori dei call center. Bene, se ci fosse questo numero unico, questo prefisso unico, sicuramente sarebbe un vantaggio, e le persone sicuramente potrebbero decidere di non rispondere sapendo che si tratta appunto di un call center. Ora non sappiamo poi quanto questo numero unico, questo fisso unico speciale verrà istituito, sappiamo che ci sono anche degli interessi sotto, diciamolo chiaramente, insomma i call center comunque fanno lavorare migliaia di persone, quindi sicuramente non si arriverà mai a vietare le vendite tramite il telefono, però diciamo può essere un'idea. Sicuramente in Italia abbiamo anche qualcosa nel cassetto, perché diciamolo, è in discussione, viene discusso questo argomento, perché effettivamente è molto sentito dalle famiglie, dagli utenti, E quindi, diciamo, una delle proposte di legge nel cassetto, come tante in Italia, è quella di prevedere l'apertura appunto del registro dell'opposizione anche per tutti i numeri del telefono cellulare. È un primo passo, abbiamo visto Francesco che poi il registro delle opposizioni serve ma non risolve del tutto il problema. Certo, però non è efficace. Sì, diciamo che riduce il numero di telefonate, però tra call center che se ne fregano delle multe, tra in realtà aziende che se ne fregano delle multe e, come abbiamo già detto durante una trasmissione, ci sono anche i call center che chiamano dall'estero e quindi non sono soggetti alle regole del registro delle opposizioni, quindi vediamo che viene aggirato ampiamente la cosa. Però diciamo che chi si iscrive sicuramente vede limitato il numero di telefonate. C'è un'altra proposta abbastanza interessante, direi, che è quella di fare praticamente tabula rasa di tutti i database che hanno a disposizione le aziende di numeri di cellulare. A quel punto, dopo aver fatto tabula rasa, le persone devono stare attente a non lasciare, se non vogliono chiaramente essere disturbate, a non lasciare il proprio cellulare. Per esempio nei supermercati, quando c'è scritto lasci il suo numero di telefono, e i suoi dati personali potranno essere trattati per fini promozionali, eccetera. Ecco, quello è l'errore, perché da là si sa che quel numero di telefono può essere trattato da qualsiasi azienda. Facendo una tabula rasa, facciamo finta diciamo di niente, ci dimentichiamo dell'errore fatto dopo aver lasciato il cellulare al supermercato, non lo facciamo più e quindi teoricamente almeno al cellulare non dovremmo più essere disturbati. La nostra sensazione è che ci voglia proprio un intervento radicale, lo diciamo, l'abbiamo già detto più volte, perché la situazione è fuori controllo, lo continuiamo a dire, soprattutto perché c'è la possibilità di stipulare i contratti a livello telefonico e sono validi, e tante persone stipulano dei contratti senza saperlo, soprattutto persone anziane. Serve veramente un intervento alquantomeno governativo e il più rapido possibile, lo diciamo da tempo. Certo, mi sembra un'osservazione utile e importante. Ricordo che l'Adico magari vi può dare una mano, quindi www.associazionedifesaconsumatori.it, dove trovate i numeri di telefono per contattare i nostri amici. Con l'Adico ci ritroviamo tra qualche giorno. Grazie a Gianluca Codognato. Grazie a te, Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.